Radio 24 Reportage. In galera, come scontare la pena tra i fornelli, di Valentina Furlanetto. Senta, io vorrei sapere se posso lavorare un po' nelle cucine. Sai cucinare? Questo cucchiaio è un po' consumato, lo posso cambiare con un altro. Ah, lo può dire forte che so cucinare. Lo sai che una volta facevo il cuoco in una tavola calda in Georgia. Andavano pazzi per le mie polpette. E poi? Te ne sei andato o t'hanno licenziato? Né l'uno né l'altro. Paf! Ho rapinato il locale. In fuga da Alcatraz le cose andavano così, ma nella realtà possono andare diversamente. Lo dimostra la cooperativa ABC, che assieme alla direzione del carcere di Bollate, a PWC, si sono inventate un'iniziativa che ha dell'unico in Italia. Un ristorante all'interno del carcere, in galera, dove a servire a tavola e cucinare sono i carcerati. Si trova a due passi da Milano, proprio a fianco ai padiglioni abbandonati ormai di Expo. Dimenticate il rancio a base di pane e acqua. Qui si spazia dalle pappardelle alle castagne allo stinco di maiale profumato di menta e limone. 52 posti a sedere, aperto 6 giorni su 7. Ma soprattutto fiore all'occhiello dell'intero sistema penitenziario italiano per l'innovativo sistema di rieducazione dei detenuti. La vice direttrice del carcere, Cosima Buccoliero. Fino a questo momento abbiamo molte prenotazioni, sia a pranzo che a cena, e sì, devo dire che la città di Milano ha disposto molto bene, quindi non soltanto le persone che sono vicine a noi, che ci conoscono, che ovviamente sostengono il progetto, ma anche proprio persone estranee, molti ragazzi, molti giovani si sono presenti, ci sono state molte prenotazioni da parte loro, e quindi sì, al momento sta andando bene. Bollate ha insistito molto sull'apertura all'esterno. Devo dire che abbiamo ricercato sempre la collaborazione con l'esterno, sia con le istituzioni esterne che con proprio il terzo settore, le associazioni di volontariato. Abbiamo fatto in modo che le attività fossero in qualche modo anche condivise con l'esterno. E secondo me questa è la forza, nel senso che noi abbiamo evitato di chiuderci in noi stessi, ma abbiamo fatto in modo che appunto questa apertura potesse fare anche del carcere una risorsa per la città. Ecco, ci sono molti detenuti che escono, che svolgono attività di volontariato all'esterno, in varie attività, non so, anche alla Caritas, la Casa della Carità, alla Mensa dei Poveri, e tutto questo insomma ci aiuta, aiuta sia le persone detenute, ma aiuta proprio anche la struttura e aiuta sicuramente i progetti. Hanno commesso qualunque tipo di reato, hanno anche delle pene quanto più diverse, che vanno dall'ergastolo ai 3 mesi di pena definitiva. Uno di loro è Mohamed, nome di fantasia che usiamo per tutelare la privacy del cameriere carcerato che ci viene incontro. Mohamed è a Bollate da 2 anni. Sto facendo la scuola alberghiera e sto facendo il tirocinio, poi mi hanno assunto come cameriere lavapiatti. È una bella opportunità. Sì, sono contento e soddisfatto. Comincio a tornare alla mia vita, quella di prima. A famiglia fuori? Sì, 2 figli e una moglie. Anche per questo le serve il lavoro, immagino. Sì, sono soddisfatto perché appena mi hanno assunto, almeno mando a Natale qualcosa per i miei figli. Ah, che bello caffè, pur in carcere 2 anni fa, con ricetta caccia e cirinella, compagni di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi... Anche Mario è detenuto, nel suo caso da 4 anni dietro le sbarre. Lo incontriamo fra i vapori della cucina mentre si occupa di pulire il pesce. Lui infatti è aiuto chef. Siamo persone che abbiamo normali, che abbiamo sbagliato. L'importante è rendersi conto dell'errore che si fa e cercare di uscire diversi. Il progetto, che si può dire innovativo, è volto, credo, a poter dimostrare che chi si rende conto degli errori che ha fatto nella propria vita può tornare nella società, ma se non si danno i mezzi alle persone per riscattarsi, quando tornano nella società probabilmente torneranno a fare quello che facevano prima. forte, anche perché la vita, diciamo, nel carcere è una vita che non serve a niente, come non serve né a reinserirsi né probabilmente imbruttisce e incattivisce ancora di più la persona. Se però gli si dà una speranza, se però gli si dà una prospettiva di futuro e... Per esempio, per lei, che cosa faceva prima dell'apertura qui? Allora, praticamente niente. Il lavoro per noi ci fa trascorrere anche il tempo molto, molto velocemente, cioè non hai il vivere all'interno in cella. È una cosa che è talmente monotona che tu ogni minuto stai guardando e le giornate non sono di 24 ore, sono lunghissime. Il vivere lavorando, guardi l'orologio, è finita la giornata, cioè è stata costruttiva e veloce, fondamentalmente. Per me è anche il pensiero di poter dare una mano alle persone che mi sono rimaste fuori, alla mia nuova compagna, ai miei figli, che è comunque un pezzo della tua vita è rimasta fuori. Cioè, l'idea di Bollate in generale è questa: dare la possibilità al detenuto di formarsi, di uscire preparato, pronto per poter inserirsi e tornare a vivere normalmente, senza avere la recidiva, come si dice. Ecco. Cosa sta cucinando? Ma adesso stavamo facendo una prova con il pesce, con il baccalà, per il nuovo menù che faremo da gennaio, perché siamo sempre in divenire. Abbiamo già una linea, e però stiamo già provando i piatti nuovi che metteremo nella nuova carta di gennaio. La brigata di carcerati è diretta da un non carcerato, lo chef Ivan Manzo. Diciamo che i ragazzi che lavorano qui sono un po' più motivati dei ragazzi fuori, perché devono riscattarsi, hanno voglia di riscattarsi e di riprendersi la loro libertà con calma. E questo si sente, si vede? Dalla volontà, dalla voglia che ci mettono a fare le cose, dalla voglia, dello spirito che ci hanno di fare le cose fatte bene, anche se non sono proprio professionisti, quelle cose lì. È proprio gente, magari uno se non ci ha mai avuto a che fare non capisce, però proprio anch'io all'inizio ero molto prevenuto, però poi lavorando nel catering tutto ho capito che alla fine è gente normale. Sicuramente qualcuno poi tornerà a sbagliare, però la maggior parte, secondo me, poi con questo sistema qui che li rimette nel mondo del lavoro, li aiuta a reintegrarsi, secondo me magari riacquistano la retta via, magari. Il suo piatto, quello che le piace di più fare? Di questo menù il salmi di cervo con le tagliatelle di castagne che facciamo noi, sia le tagliatelle che i salmi. I ragazzi non hanno mai fatto pasta fresca, stanno imparando piano piano. Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà? In galera è nato da un'idea della cooperativa ABC, che a Bollate lavora da anni. La presidente è Silvia Polleri. Noi siamo una cooperativa sociale che dal 2004 opera all'interno del carcere di Bollate, facendo catering di alto profilo e uscendo coi signori che sono detenuti, escono utilizzando le misure alternative, significa lavoro all'esterno e poi rientrare all'interno del carcere. Da anni coccolavamo quest'idea per rafforzare la professionalità e la possibilità in un futuro, una volta liberi, per i detenuti di affermarsi lavorativamente sul territorio. In questo nostro percorso abbiamo incontrato la PwC, la PricewaterhouseCoopers, che aveva l'idea di fare una partnership proprio con una onlus con l'obiettivo di aprire un ristorante. Qui vengono assunte anche detenuti? E certo, la particolarità è proprio questa: come anche con la cooperativa dall'inizio, dal 2004, noi abbiamo sempre assunto il personale ristretto detenuto per prestare la loro opera, partendo da un presupposto, che il lavoro, per essere tale come prima definizione, è che deve essere retribuito. Tutti questi progetti che vengono fatti anche qui a Bollate servono anche per evitare che ci siano situazioni in cui si esce e poi si ritorna, no? In che maniera questo può aiutare? Il sottotitolo lo direi la porta girevole, come viene definita. Bollate ha un'esperienza ormai consolidata da questo punto di vista, cioè l'obiettivo, la riduzione del danno è un obiettivo molto preciso e io desidero sempre sottolineare che tutto ciò che noi facciamo non ha nulla del buonismo, ha un fine ben preciso, la riduzione della recidiva nell'interesse comune di tutti. Alcuni dati: sul territorio nazionale la recidiva si aggira tra il 68 e il 70%, a Bollate scende sotto al 20%. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53 e al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me tutto il giorno, con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale, mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa, qua ricetta cacci cirinella, compagni di cella c'è da mamma. Fondamentale è stato poi il contributo di PwC, come spiega Francesco Ferrara. L'idea dietro il ristorante era quella di avviare un'impresa sociale, che è un'iniziativa diversa rispetto a quelle che in qualche modo come PwC normalmente si chiama come clienti, quindi aiutare la nascita di un'impresa sociale che fosse centrata sul cibo, che è un tema centrale in Italia. E quindi abbiamo ragionato cercando un partner che potesse essere giusto per questa iniziativa, avesse un interesse simile al nostro, e abbiamo trovato Silvia Polleri e Cooperativa BC. Il vostro lavoro è fare calcoli. Esatto. È sostenibile un ristorante di questo tipo anche a livello economico? Sì, è stato, diciamo, la parte a valore aggiunto che abbiamo portato al tavolo, perché il ragionamento è stato capire se in che misura un'iniziativa di questo tipo non era un passo azzardato, era sostenibile il mercato, il contesto. Il ristorante è vicino ad Expo, ma ha aperto, diciamo, in prossimità della chiusura di Expo, e quindi chiaramente bisognava ragionare su come dopo Expo il ristorante avrebbe vissuto, che tipo di clientela, che tipo di menù, che tipo di costi. Il ristorante è sostenibile. Perché uno dovrebbe andare al ristorante in carcere? L'offerta di Milano dal punto di vista della ristorazione è molto ampia e alta. Perché andare lì invece che da un'altra parte? Beh, è sicuramente un'esperienza diversa, perché vai, per molti è un'esperienza nuova e quindi comunque affronti una realtà anche che può avere un che di tabù. Allo stesso tempo il ristorante è moderno, molto accogliente, molto bello, e ha un'offerta di cibo di grande qualità a un prezzo assolutamente ragionevole. Quindi, come dire, unisce la qualità del cibo, che a Milano effettivamente si può trovare in tanti altri posti, è una realtà, un'esperienza diversa in un posto diverso, e anche chiaramente sostiene un'impresa sociale, quindi unisci tante finalità che sicuramente non è comune riunire. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa, qua ricetta cacci cirinella, compagni di cella c'è da mamma. Prima di chiudere, due avvertenze. Al ristorante in galera non si va per sentirsi più buoni, ma semplicemente per mangiare qualcosa di buono. Infine, per andarci bisogna prenotare. In galera non fanno entrare chiunque. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.